24 mattino di Alessandro Milan. Eccoci qua con 24 mattino in diretta fino alle 9 e subito il sondaggio di oggi che potete già votare su radio24.it in alto, dove troverete la sezione bianco o nero, entrate lì, oppure sul sole24ore.com. Parliamo di immunità parlamentare che si vuole ripristinare da parte di qualcuno e vi chiediamo: è un principio democratico secondo voi, previsto, ricordiamo, dai padri della Costituzione dopo il fascismo e dopo la Seconda Guerra Mondiale con la Costituzione italiana, oppure è un privilegio da non reintrodurre, caduto dopo Tangentopoli? Votate lì e ora la lettura dei giornali. Prosciutto di Parma, non è crudo, è di Parma. Vi presenta in primo piano. Beh, la giustizia, ma con il processo breve che occupa le aperture dei giornali, certamente se ne occuperà tra l'altro anche Oscar Giannino alle 9, lo segnalo. Sentenza in 2 anni o il processo cade, magistrati opposizione in rivolta, così apre il Corriere della Sera. Legge salva premier è rivolta per Repubblica, processo breve è scontro per La Stampa, la rivolta è la prima pagina dell'Unità. Insomma, è declinato in questi modi le aperture sul processo breve. Per quel che riguarda invece le aperture economiche, il Sole 24 Ore, sconti fiscali solo sull'IRPEF, molto interessante, poi lo vedremo. E il Giornale anche apre su questo: tasse, sconti per le famiglie, regalino di Natale agli italiani. Ma ovviamente anche su questi giornali c'è ampio risalto sulla notizia da cui voglio partire, quella proprio del processo breve. Voglio partire, prima che dall'analisi di quello che verrà probabilmente approvato in questo disegno di legge, dai cosiddetti dietro le quinte o retroscena della politica. Sul Corriere della Sera Paola Di Caro inizia così: sono ormai giorni che non parla in pubblico e secondo i suoi c'è un solo motivo, se lo fa è un macello, perché Silvio Berlusconi ha tutt'altro che smaltito la rabbia accumulata nelle ultime settimane, montata negli ultimi giorni. Al Cavaliere proprio non va giù che l'alleato, vale a dire Fini, dopo tutto quello che ho fatto per lui, dopo tutto quello che gli ho dato, faccia cadere dall'alto quello che gli serve per andare avanti, uno scudo sulla giustizia. E il retroscena è proprio intitolato così: la delusione del premier, a Fini ho dato tanto, lui fa cadere tutto dall'alto. E basta andare su un altro giornale, di certo non lontano dalle idee governative, Libero. Vogliono rovinare Silvio. È Franco Bechis, il vice direttore, che firma un editoriale: divorzio da Veronica, risarcimento a De Benedetti, causa col fisco, il Cavaliere rischia l'impero economico, traspartizione danni, un conto da 4 miliardi di euro. Questa volta, scrive Franco Bechis, Silvio Berlusconi è davvero circondato. Il virgolettato è d'obbligo, perché a descrivere così la situazione è il diretto interessato. Sono circondato, ripete il premier da qualche mese a ogni incontro con i suoi più diretti collaboratori. Non c'è parte dove voltarsi in cui Berlusconi non trovi davanti un nemico, in politica, nelle istituzioni, nel rapporto con i magistrati, in famiglia. Ci sono i bazooka delle procure, scrive Bechis, che oltre a poter sbalzare il Cavaliere dalla sella di Palazzo Chigi potrebbero avere l'effetto di sottrargli anche parte del patrimonio e delle aziende. Insomma, questo è il clima, sono voluto partire da qui per poi analizzare quelli che sono appunto gli effetti del processo breve secondo molti giornali. Adesso basta, titola il Fatto Quotidiano e mette in prima pagina i parenti delle vittime del rogo della ThyssenKrupp, con una domanda: e questi avranno mai giustizia? Lo fa anche l'Unità, che mette la foto di Romana Blasotti Pavesi. Chi è? È la responsabile del comitato delle vittime dell'Eternit, vale a dire le vittime presunte dell'amianto, il cui processo dovrebbe iniziare dopo anni di tira e molla a dicembre. Voglio il processo, la mia famiglia è tutta il camposanto, ha perso il marito, la figlia, la sorella, il nipote, tutti per l'amianto, e dice chissà se si farà mai il processo. Perché queste foto? Perché a queste domande rispondono i giornali. Il Sole 24 Ore, con un articolo di Giovanni Negri, comincia a analizzare l'impatto di quello che sarebbe le cancellazioni, insomma le estinzioni dei processi se dovesse passare questo disegno di legge. A rischio il processo BNL, non Thyssen e Parmalat, scrive Giovanni Negri. Il disegno di legge con le misure presentate minano alla base il processo Antonveneta, compromettono quello BNL. Anton Veneta, scrive Negri, potrebbe essere di fatto già morto per gli imputati eccellenti. Antonio Fazio, incensurato, accusato di aggiotaggio con pena massima nel 2005 a 6 anni. Ma anche Giampiero Fiorani, che ha sì due condanne patteggiate alle spalle, ma per come è scritta la norma potrebbe cavarsela perché la condanna patteggiata può non valere ai fini della recidiva. Quindi Fiorani, imputato per aggiotaggio, potrebbe ancora essere ritenuto incensurato. Discorso analogo per il processo BNL, dove Fazio, ma anche gli ex manager Unipol, Giovanni Consorte e Ivano Sacchetti sarebbero interessati dall'estinzione. Per quanto riguarda Parmalat, tumulato il processo alle banche, Citigroup, Morgan Stanley, UBS, Deutsche Bank. Nessun rischio invece per il processo in corso a Calisto Tanzi, perché il reato in questo caso è bancarotta fraudolenta con l'aggravante dell'associazione a delinquere, dunque è escluso da questo DDL. Il processo in corso a Torino per il rogo Thyssen dovrebbe essere invece al riparo, visto che il disegno di legge esclude delitti in violazione delle norme anti-infortunistiche. Così fa anche il Corriere della Sera con Luigi Ferrarella, un commento che parte dalla prima pagina: ecco i processi a rischio, da Mills alla mala sanità, prescrivibili anche le cause per evasione fiscale. Insomma, stroncati sarebbero anche i dibattimenti per Ferrarella su maxi corruzioni come tangenti delle inchieste nei Power e nel Power. Sterilizzate anche tutta la vicenda, per esempio, della clinica Santa Rita a Milano, sapete, quella delle presunte operazioni inutili che hanno portato anche alle morti di vari pazienti. Colpo di spugna sui reati della finanza è la stessa analisi praticamente su Repubblica, anche se i dubbi sempre da Repubblica vengono, secondo Liana Milella, dallo stesso Quirinale. Le prime preoccupazioni degli esperti giuridici del Colle hanno cominciato a farsi più spesse man mano che la lettura del progetto di legge, il disegno di legge, andava avanti. E anche Nicola Mancino, secondo Repubblica, avrebbe già fatto conoscere le proprie perplessità su questo disegno di legge. Insomma, trovate moltissimo di commenti e opinioni. Ripeto, poi alle 9 Oscar Giannino ne parlerà approfonditamente, dalle 9 alle 10. Voglio saltare al Giornale, perché il Giornale tratta questa vicenda, ma la tratta con una notizia molto molto curiosa che viene messa in prima pagina. La notizia che viene messa in prima pagina proviene da un liceo, ebbene sì, il liceo scientifico di Trani, dove una professoressa di latino della terza C, Angela Di Nanni, invece di dare una versione di latino agli studenti, che ne so, di Tito Livio, dice il Giornale, ha dato una versione di latino da tradurre che inizia così: Silvius Berlusconi ante judices vocabitur tribunal italicus, cuius munus est de legum communium congruentia cum legge suprema judicare. Mi avrebbero dato un 4.5, credo, in latino, ma il concetto è questo, la traduzione. Silvio Berlusconi sarà chiamato davanti ai giudici, il tribunale italiano, il cui compito è giudicare la congruenza delle leggi comuni con la legge suprema, ha stabilito solennemente che la legge chiamata col nome del ministro Alfano, secondo la quale, eccetera, eccetera. Insomma, gli studenti di latino del liceo di Trani si sono trovati con una versione del genere Il Giornale titola Sinistra in cattedra, la versione di latino per insultare Silvius. In un liceo di Trani la professoressa fa tradurre agli studenti il testo sulla Legem Alfano Appellatam. Vabbè, anche un po' da sorridere viene, dai, la legge sul lodo Alfano. Questo è per quel che riguarda tutta la vicenda giustizia che trovate in prima pagina, sempre legata alla giustizia. Vabbè, trovate ancora la vicenda di Cosentino, che ieri ha parlato al Giornale e poi oggi ha detto, dopo aver parlato con Berlusconi, non mollo, resto candidato alle regionali della Campania. Il Giornale dice roba di 20 anni fa, chiedono l'arresto ora. C'è da dire che qualcuno ha fatto notare che sembra un po' una candidatura così per forzare la mano, visto che se Cosentino venisse eletto alla regione Campania non sarebbe più parlamentare dovendo rinunciare a una delle due cariche, e non essendo più parlamentare non avrebbe lo scudo dell'immunità e andrebbe dunque in carcere. Dunque sembra abbastanza poco plausibile che alla fine ci sia una candidatura, anche perché sarebbe in caso di elezione contro il suo stesso interesse. In primo piano. Sconti fiscali solo sull'IRPEF. Questa è l'apertura del Sole 24 Ore. Niente più tagli sugli acconti di novembre per IRAP e IRES. Il decreto legge varato dal Consiglio dei Ministri limita la riduzione dell'acconto alla sola IRPEF dal 99 al 79%. All'interno Dino Pesole analizza molto bene quelle che sono le misure fiscali per le vie del rilancio. Appunto, niente più taglio dell'acconto per IRAP e IRES. E il titolo infatti è questo: taglio dell'acconto solo per l'IRPEF. Si parla di beneficio da applicare alle piccole e medie imprese, ditte individuali, società di persone, liberi professionisti che versano l'imposta sulle persone fisiche, insomma buona parte del popolo delle partite IVA. Sulle modalità con le quali si è giunto a questo cambio di marcia, scrive Dino Pesole, si è creato una sorta anche di giallo, perché al termine del Consiglio dei Ministri la decisione è sembrata essere quella della riduzione generale e generalizzata dell'acconto IRES, IRAP e IRPEF per uno sconto pari a circa 3,5 miliardi, anche se con percentuali diverse a seconda della singola imposta. Questa è stata l'informazione giunta da alcuni ministri, mentre il comunicato ufficiale di Palazzo Chigi parlava semplicemente dell'avvenuta approvazione del decreto legge per il differimento di acconti di imposta su proposta del presidente Berlusconi e del ministro Tremonti. Insomma, un piccolo giallo, la riduzione di 20 punti per 3,8 miliardi, saltano IRES e IRAP comunque in questo taglio, mentre il taglio dell'acconto è solo per l'IRPEF. Sempre sul Sole 24 Ore si analizza con Luigi Lazzi Gazzini quello che sta invece succedendo alla finanziaria, che è oggi previsto in vista al primo traguardo al Senato, salvo sorprese, incidenti. È prevista l'approvazione con quella del bilancio di previsione, poi il passaggio alla Camera. Che succede? Che ci sono tensioni sugli emendamenti e, secondo il Sole 24 Ore, anche la Banca del Sud rischia di uscire, cioè questa creatura fortemente voluta dal ministro dell'economia Tremonti. Sarebbero collegati problemi regolamentari in cui è incappato questo emendamento, un emendamento che, non essendo stato valutato a tempo debito in commissione bilancio, è rimasto a rischio di inammissibilità. Una trattativa che è proseguita fino a tarda sera di ieri, come scrive Luigi Lazzi Gazzini. Vedremo oggi come andrà a finire. Lasciando l'economia e passando verso la cronaca, troverete zero praticamente sulla notizia di ieri del Corriere, secondo la quale Veronica Lara avrebbe depositato il ricorso per la separazione con addebito a Milano. Perché zero? Ci sono degli articoli, ma Veronica Lara si è rifugiata in Svizzera e nella riservatezza più assoluta. Secondo il Corriere della Sera, Veronica e la separazione nel rifugio svizzero sceglie la riservatezza. Agli amici dice: non vorrei più apparire. E insomma, questa vicenda però in qualche modo apparirà ancora sui giornali. Ancora due notizie prima di passare a un'ampia pagina dedicata al cinema, che oggi è molto ben documentato sui giornali. Trovate su ancora Mohamed Ghame, quel kamikaze che è stato fermato, che si è tentato di farsi esplodere davanti a una caserma, base ad Arcore per poter spiare il premier. Secondo anticipazioni che trovate sull'Espresso, Mohamed Ghame, l'uomo che si è fatto saltare a Milano, aveva raccolto su Maroni, La Russa, Calderoli, Fini, Santanchè, ma anche su Berlusconi, dei dossier. Abbastanza inquietante, molto inquietante. E inoltre, qualcuno forse lo conosce, il Rototom Sunsplash è il più grande festival reggae, della musica reggae europeo, nato 16 anni fa a Osoppo in Friuli. Reggae marijuana, stop al festival, bloccato il raduno europeo Rototom. Perché? È Giovanardi che dice: è un centro di spacciatori e dunque è stato bloccato. Dicevamo il cinema. Oggi esce, o domani, insomma questo weekend, La prima linea. È quella pellicola tratta da un libro di Sergio Segio, l'ex terrorista, e che ha fatto molto discutere. Prima per i finanziamenti pubblici, anche se il produttore del film ha detto: sapete che c'è, non li voglio più. Poi oggi sui giornali troverete molti articoli di chi Beh, Benedetta Tobagi, figlia di Walter Tobagi, per esempio, su Repubblica, che ha visto il film e lo commenta. E in prima pagina della stampa, e voglio partire da lì, Mario Calabresi, il direttore, nonché il figlio del commissario Calabresi, scrive: prima linea, sconfitti eppure eroi. Quella mattina di 30 anni fa, Marco l'ha dimenticata da tempo, la mattina che ha cambiato la vita sua, forse non l'ha mai ricordata, cancellata dal dolore. Ieri l'ha rivissuta due volte. Ha visto un bambino con la cartella blu sulle spalle scendere da una Renault 5 arancione, ha visto un uomo che solo vagamente somigliava a suo padre, il giudice Emilio Alessandrini, accompagnarlo fino al cancello della scuola, piegarsi per baciarlo. Lo ha visto risalire sull'auto e dirigersi verso l'incrocio dove lo avrebbero ammazzato. Ma la prima scena raccontava solo il pedinamento, non ha dovuto assistere all'omicidio. Marco per un attimo ha tirato un sospiro di sollievo, anche se sapeva che la storia non può cambiare. Così si è messo a guardare l'orologio in continuazione, aspettando che la scena si ripetesse, ed è sbottato, ma è di una lentezza esasperante. Poi ha visto il bambino che lo impersonava scendere di nuovo dalla macchina e si è irrigidito aspettando che Sergio Seggio e Marco Donat Cattin cominciassero a sparare e mettessero fine alla vita di uno dei magistrati migliori che Milano abbia mai avuto. Intorno a noi non c'era nessuno, soli io e Marco in un cinema deserto di Torino all'ora di pranzo per vedere il film sulla storia del gruppo terroristico Prima Linea, tratto dal libro Miccia Corta di Seggio. Insomma, forse avete capito, Mario Calabresi e Marco Alessandrini, il figlio del magistrato ucciso da Prima Linea, da Sergio Seggio, il 29 gennaio 79, hanno visto da soli in un cinema proiettato per loro in anteprima la Prima Linea. Io, mio padre e gli eroi sconfitti di Prima Linea è un bell'articolo di due pagine all'interno di Mario Calabresi, il direttore della stampa, appunto, che racconta le tensioni, le emozioni, le sensazioni di avere visto questo film insieme al figlio del giudice Alessandrini, ucciso da Sergio Seggio. Terminata la proiezione, ci siamo messi a camminare verso l'uscita e zitto è rimasto a lungo, scrive Mario Calabresi del figlio del giudice. Poi ha cominciato a elencare le mancanze, le licenze artistiche, a commentare i dettagli. Diciamo la verità, è un film superficiale, come superficiali erano quei terroristi degli anni 70, ha detto il figlio di Alessandrini. Perdonami la franchezza, erano dei deficienti, degli idioti in senso tecnico che giocavano alla guerra. Solo noi sappiamo quanto devastanti sono state le conseguenze dei loro gesti irresponsabili. Ma trovate anche, come detto, Benedetta Tobagi su Repubblica, Olga D'Antona intervistata al Riformista, che ha detto, è una delle poche parenti delle vittime che dice non mi è dispiaciuto questo film, e Pierluigi Battista che ne parla in prima pagina del Corriere e poi all'interno, criticando il fatto che siano stati scelti due volti così belli, quelli di Riccardo Scamarcio e di Giovanna Mezzogiorno, per interpretare i due terroristi Sergio Seggio e Susanna Ronconi. Il fascino del male in quei volti seducenti. Soldi e dintorni. Allora, oggi è la giornata mondiale della gentilezza, ho letto da qualche parte, dunque non insulterò Deborah Rosciani, buongiorno, eccoci qua, buongiorno. Sono anche un po' commossa. Cosa che non capita mai, peraltro, di insultarti. Praticamente, guarda, ho già le lacrime, non so se le vedi scorrere, stanno anche stamattina rigando il mio viso copiosamente. Va bene. Pascoli si è impossessato dello studio. Possiamo andare avanti con degli argomenti seri oppure... No, aspetta, che sai che ho la mia domanda di rito come tutte le mattine. Ecco. Lo sai quanti anni ha il libretto di risparmio italiano? No, non metterti le mani sugli occhi. Io ne ho quasi 39, ma guarda, poi è dopo... molto più vecchio di me, te messi insieme. Ah, va bene. In Italia la Cassa Depositi e Prestiti ne emette dal 1875, pensate, mi rivolgo agli ascoltatori oltre che ad Alessandro. In Italia ce ne sono ben oltre 25 milioni, oltre 25 milioni quelli diffusi fra le famiglie italiane, per un controvalore di 80 miliardi di euro. E quindi si tratta delle forme di risparmio più note e diffuse, e però avendolo il libretto di risparmio è come avere quasi del contante in mano, per cui se serve del denaro depositato nel libretto si deve fare la fila in banca o alla posta. Il libretto infatti si può utilizzare solo in questo modo, perché permette di accumulare del denaro versandolo e, se serve, di prelevarlo recandosi direttamente, appunto, fisicamente in banca o, nel caso di cui parliamo oggi, in posta. Allora, la posta sta predisponendo una vera e propria piccola rivoluzione per modificare proprio il formato del libretto di risparmio. In che che cosa consiste questa novità, stamattina ce lo spiega Maurizio Di Luzio, responsabile Wealth Management di BancoPosta. Buongiorno. Buongiorno a voi e ai vostri radioascoltatori. Allora, c'è una piccola rivoluzione, io l'ho chiamata così, state trasformando i libretti di risparmio, mi verrebbe da dire in bancomat, ma il dottor Di Luzio mi ha detto prima della trasmissione, per carità non lo chiami bancomat, perché in realtà è vero, il bancomat serve anche per fare delle operazioni di acquisto e tante altre cose. In realtà però il libretto postale si trasforma in una carta elettronica. Più che trasformarsi, diciamo che la carta elettronica dotata di microchip è uno strumento che si affianca, si associa al tipico strumento di deposito di risparmio che è il libretto di risparmio postale, che come avete detto voi è ultracentenario. È, come dicevo, una carta elettronica dotata di microchip che consentirà da lunedì prossimo, quindi dal 16 novembre, di poter prelevare o versare presso tutti e 14.000 gli uffici postali denaro contante, così come prelevare nei 5.000 sportelli automatici ATM Postamat altrettanto denaro contante nei 5.000 uffici postali principali che sono dotati appunto di questo sportello automatico. Ecco, perché avete pensato a questo cambiamento? Quindi in sostanza si potrà a questo punto fare accrediti o fare dei prelievi appunto dal libretto di risparmio senza utilizzarlo materialmente, senza portarseli in giro o portandosi dietro semplicemente la carta? Ma io direi, voi avete parlato di rivoluzione, io parlerei viceversa di una naturale evoluzione di un prodotto che ovviamente è datato e che però evidentemente ha già subito nel tempo dei processi di innovazione. La card sicuramente semplifica la vita dei nostri risparmiatori, non fosse peraltro che oggi il libretto postale può essere utilizzato nelle sue attività di prelievo e versamento soltanto da chi ne dispone fisicamente del titolo. Lei pensi che il libretto può essere quintestato anche a fino a un massimo di quattro persone? Ovviamente soltanto uno dei quattro potrà agire in sede di prelievo di versamento. Con la carta, ovviamente tutti e quattro, per l'esempio che ho fatto, tutti e quattro i contestatari del libretto cartaceo potranno richiedere la card e potranno agire in circolarità su tutto il territorio nazionale utilizzando la propria carta elettronica personale. Dottor Di Luzio, noi conosciamo due tipi di libretti di risparmio, quello nominativo e quello al portatore. La novità riguarda entrambe le forme? No. Allora, diciamo che riguarda soltanto il libretto di risparmio nominativo ordinario, quindi rispetto ai 25 milioni di pezzi che lei accennava prima, stiamo parlando di poco meno di 23 milioni di pezzi. Ecco, consideri che la novità della card in realtà non è una novità in assoluto, ecco perché le parlavo di un processo naturale di innovazione. Di evoluzione, non rivoluzione. Già nel 2003, noi al momento in cui abbiamo lanciato i libretti di risparmio postale dedicati ai minori, nelle fattispecie denominate io conosco, io cresco, io capisco, bene, per i minori da una fascia di età da 12 a 18 anni, dal 2003 e ancora oggi è possibile ottenere ed associare al libretto del bambino una carta elettronica dotata di microchip. Allora, per chi volesse quindi in questo caso associare la card al suo libretto di risparmio, che cosa deve fare? Va in un ufficio postale, ovviamente se ha già il libretto deve semplicemente compilare il modulo per la richiesta della card, diversamente deve anche richiedere il libretto, dopodiché entro un congruo numero di giorni riceverà a casa in maniera separata due buste che contengono una la carta, l'altra il PIN. Una volta ricevuto questi due documenti si dovrà poi recare sempre all'ufficio postale per attivare la carta, da quel momento l'operatività è pronta. Quanto costa al risparmiatore? Nulla, così come nella tradizione dei prodotti del risparmio postale che sono totalmente gratuiti sia al momento dell'accensione del prodotto che in sede di gestione, quindi sia prelievi che versamenti sono totalmente gratuiti, anche in caso di duplicazione, in conseguenza di smarrimento, sottrazione e distruzione della card, il rilascio del duplicato è totalmente gratuito. Dottor Di Luzio, io la devo già salutare, ma le concedo ancora 10 secondi di tempo. Avete già preventivato quante pensate di emetterne? Secondo lei, visto che il libretto di risparmio è uno strumento proprio molto tradizionale, destinato magari a volte, questa comunque è ancora la percezione comune, ad un risparmiatore non particolarmente evoluto e che magari con la moneta elettronica, mi passi questo termine, fa ancora un po' di difficoltà. Quindi quante pensate di emetterne? Ma guardi, la nostra speranza ovviamente di associare 25 milioni di card ai 25 milioni di libretti. Ovviamente proprio la circostanza che lanciamo un prodotto innovativo immaginiamo che molti clienti che finora non hanno chiesto il libretto per le circostanze che magari non amano la tattilità, non amano uno strumento cartaceo, potrebbe, come posso dire, far nascere loro l'interesse verso questo nuovo strumento di, va bene, di risparmio. Tra qualche tempo conosceremo anche i vostri dati e quindi vedremo quanto successo avrà avuto anche questa piccola naturale evoluzione, come diceva Maurizio Di Luzio. La ringrazio, buona giornata, buon lavoro. Le notizie in primo piano e scontro politico sul processo breve, il disegno di legge presentato ieri al Senato. La durata dei processi non deve superare i 2 anni per ogni grado di giudizio, ne beneficeranno solo gli incensurati con esclusione di alcune tipologie di reati. Ma vi ricordo che di questo tema ne parlerà Oscar Giannino alle 9. Io mantengo la candidatura, l'ho detto a Berlusconi e lui ha preso atto, così il sottosegretario all'economia Cosentino, che ieri ha incontrato il Premier. Niente più tagli sugli sconti di novembre per IRAP e IRES. Il decreto legge varato ieri dal Consiglio dei Ministri limita la riduzione dell'acconto alla sola IRPEF dal 99% attuale al 79%. Le imposte saranno dovute col saldo a giugno e luglio 2010. I contribuenti, soprattutto il popolo delle partite IVA, avranno in tasca così 3,8 miliardi in più. E infine via libera la fusione entro il 2010 tra Iberia e British Airways. Nascerà così un gigante dei cieli da circa 5 miliardi di euro, sarà la terza compagnia aerea europea. E dunque le 8:36 minuti, detto che ieri abbiamo parlato del processo breve, che secondo l'80% di voi è una legge ad personam anziché una legge nell'interesse del paese, oggi parliamo sempre di giustizia, parliamo nel nostro sondaggio di immunità parlamentare. Yo soy o blanco o negro. Gris no voy a hacer en mi vida. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Bianco o nero, dunque, chissà chi ce lo dice in spagnolo in questa sigla, peraltro. Nessuno ce l'ha mai chiesto con curiosità. Allora, immunità parlamentare è da reintrodurre? Secondo voi, questo vi chiediamo, un principio democratico, perché così fu stabilito dai padri della Costituzione all'articolo 68, poi modificato sull'onda di Tangentopoli, oppure è un privilegio che non volete vedere reintrodotto? Partiamo proprio da Berlusconi. Che cosa ha detto il 16 ottobre riguardo a questo tema, l'immunità parlamentare, per la quale ci sono ora 4 proposte di reintroduzione? Berlusconi. Dal momento in cui nel 93 è stata abolita l'immunità dei parlamentari, sono i giudici e non i cittadini a decidere chi può continuare a fare il parlamentare o meno e chi può continuare o meno a governare il paese. Questo non credo che faccia parte di una vera democrazia e sono fermamente intenzionato a cambiare le cose. Oggi Giuliano Ferrara su Panorama: ecco, bisogna di nuovo semplicemente scegliere se tocchi a un PM decidere il governo del paese o a chi è eletto per la bisogna, perché l'immunità non è una bestemmia, di Giuliano Ferrara. Io voglio salutare il senatore Gerardo D'Ambrosio, buongiorno. Buongiorno, del Partito Democratico. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Ex procuratore di Milano durante Tangentopoli, dopo Tangentopoli, forse sull'onda di Tangentopoli cambiarono le cose, fu cambiata l'immunità parlamentare. Senatore, che ne pensa? Ma quella dell'immunità parlamentare, reintrodurre questa norma sarebbe, secondo me, introdurre un privilegio, per il semplice fatto che, come tutti sappiamo, la norma fu abrogata perché l'autorizzazione era diventata una merce di scambio fra i parlamentari, cioè io non do l'autorizzazione per i tuoi, tu non dai l'autorizzazione per i miei, e quindi si creava una sorta di immunità, tant'è vero che nel decennio precedente, il 93, data in cui fu abolita poi dal Parlamento con larghissima maggioranza l'autorizzazione a procedere, su 900 processi che erano, per cui era stata chiesta l'autorizzazione a procedere, era stata concessa solo 100 volte, per cui mi pare che sia una cosa abbastanza. Però che ne pensa Giuliano Ferrara? Dice che facciamo? Sono i giudici che decidono, dunque sull'onda di Tangentopoli devono decidere, e sull'onda del clima che ci fu allora? Quando... Io credo che tutto questo non può assolutamente avvenire. I nostri padri costituenti previdero questa norma perché temevano che con la caduta del fascismo e con una magistratura che era ancora in buona parte legata a quel regime fosse perseguitata l'opposizione, nel senso che fosse perseguitata per quei reati tipici che sono legati all'esercizio del mandato parlamentare, cioè la manifestazione del proprio pensiero in qualsiasi circostanza, che so, lo sciopero, tant'è vero che all'inizio della partecipazione a scioperi, occupazione di terreni, cose eccetera, che ci fu all'inizio, e l'autorizzazione a procedere fu osservata con grande coscienza, nel senso che poi invece per qualsiasi reato venne data non venne concessa l'autorizzazione. Quindi dice, era nata con uno scopo diverso, secondo lui. Con uno scopo completamente diverso di non impedire l'esercizio del mandato parlamentare, tant'è vero che fu prevista anche la norma che il mandato parlamentare veniva esercitato indipendentemente dal gruppo in cui si era eletto. Per cui a questo punto qua è chiaro che si tutelava soprattutto l'indipendenza e la libertà del parlamentare. Poi dopo invece è venuta fuori questa serie di reati che indignò l'opinione pubblica, tant'è vero che l'opinione pubblica si mobilitò, e lo stesso Parlamento, quando fu deciso di togliere l'autorizzazione a procedere, fu pressoché unanime. Sì, questo è vero. Che si furono dati solo 5 voti contrari. Correva l'anno 1993. Io, tra l'altro, voglio salutare Filippo Facci, buongiorno di Libero. Buongiorno a tutti. Filippo Facci, tra l'altro, nel libro di Pietro, La storia vera, l'ultimo scritto per Mondadori, ha dedicato un'ampia parte anche a quell'anno. Lei, Filippo Facci, dice: immagino la pensi in modo diverso da Gerardo D'Ambrosio, dice era proprio un clima di tintinnar di manette, di cappi che sventolavano in Parlamento, delle monetine a Craxi, ecco, forse crollò così l'immunità, cioè in un clima non molto sereno. Io non posso non registrare il mio perlomeno di stupore per la disinvoltura con cui alcuni personaggi che nel 1993, per essere precisi il 29 e 30 aprile del 1993, da lì in poi, da quei due giorni a ottobre, abrogarono una parte dell'articolo 68 della Costituzione sull'immunità parlamentare, sono gli stessi che oggi con disinvoltura chiedono il ripristino in sostanza di questa parte della norma. Lo dico perché in un paese che di memoria storica ne ha poco, andrebbe ricordato il clima del 29 e 30 marzo, quando Craxi fece un discorso in Parlamento di cui ho portato testimonianza, che in parte anche l'onorevole senatore D'Ambrosio ha riconosciuto l'onestà. È un discorso di 57 minuti che sfociò nel fatto che furono concesse solo due autorizzazioni a procedere sulle 6 richieste, e quindi ci fu praticamente una mezza rivoluzione che andrebbe ricordata e che appunto sfociò nella scena poco commendevole dell'hotel Raphael. Detto questo, mi limiterei a precisare credo che sia un po' esagerato dire che le autorizzazioni a procedere sostanzialmente siano divenute solo una merce di scambio. Se fosse stato così non ci sarebbe stata la stessa inchiesta Mani Pulite nei suoi effetti perlomeno politicamente più elevati. E, è vero che sicuramente era così forse prima del 1990, così come è vero che non è stata abrogata del tutto, ricordiamolo, questa norma, perché è ancora prevista per le richieste di arresti, anche se è vero che mi pare siano stati concessi in tutto 6 volte, e per le intercettazioni telefoniche. Quello che voglio dire io, e sembrerà cinico, è che appurato che comunque abbiamo un governo e un premier che sono disposti a fare qualsiasi legge, qualsiasi norma per ritenere di dover star fuori dalle inchieste giudiziarie perlomeno in un determinato periodo che è quello in cui stanno governando, poi non lo so. A questo punto tanto vale ripristinare una norma che secondo me è ancora valida, è valida in altri paesi occidentali, e permetterebbe, come dire, secondo me, e sarebbe meno ipocrita di altri, permetterebbe di tentare di avviare una normalizzazione che consisterebbe in questo, cioè se si pretende, come accade nei paesi più normali, che per esempio un'azione della magistratura nei confronti di un parlamentare, di un politico, abbia anche degli effetti pratici e politici, del tipo che una persona non si candidi più, non si, si dimetta, insomma interrompa la, la sua attività, bisogna però che affinché non sia sufficiente che qualsiasi magistrato della penisola prenda un'iniziativa che abbia un effetto politicamente devastante, salvo poi a non risponderne come accade di fatto, che perlomeno ci sia una possibilità di verifica, una possibilità, perché il cosiddetto fumus persecutionis, che è, insomma, è in sostanza il riconoscimento del fatto che ci sia un presunto accanimento nei confronti del parlamentare, ogni tanto c'è anche veramente. Concludo dicendo questo, appunto, non è che se non viene concessa l'autorizzazione a procedere significa automaticamente che la classe politica è una casta e si sta arroccando. Ci sono, credo che lo sappia senatore D'Ambrosio, anche, ci sono state anche delle richieste oggettivamente esagerate. Io sono o blanco o nero, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Allora, vorrei sapere dall'onorevole Franco Barbato, Italia dei Valori, perché no è un no così netto, immagino sia il suo pensiero, un privilegio da non reintrodurre l'immunità parlamentare. E perché si cerca semplicemente di aiutare la casta, anzi, anziché la casta si cerca di aiutare la cosca che oggi si annida nella politica, si annida nel governo, si annida in Parlamento, perché guardi, con l'articolo 68 che viene tanto spesso richiamato, si voleva evitare che venissero perseguitati i reati politici, cioè i reati di opinione, cioè che venisse data al parlamentare la possibilità di poter esprimere liberamente le proprie idee. Per la verità questo oggi non avviene, perché ieri e ieri l'altro a me in aula a Montecitorio non hanno consentito di poter parlare, perché volevo semplicemente dichiarare i fatti accaduti. Ma lei è uno che quando prende la parola, come non l'ha fatta parlare? È uno anche irruento, come hanno fatto? Ne ha messo un paio di manette? Stavo semplicemente cercando, ed è la ragione per la quale ho chiesto che si dimettesse la vicepresidente Bindi, perché non è possibile imbavagliare un parlamentare ed ammazzare. Poi mi scusi, democrazia. Barbato, mi faccia fare questa precisazione, perché lei ha detto la cosca che si annida nel governo, sa, io prendo le distanze, no, sa perché? Perché lei poi c'ha l'immunità, almeno l'insindacabilità delle opinioni, però poi dopo le diffamazioni a mezzo stampa arrivano anche a me. Comunque no, ma guardi, allora la politica deve togliersi di dosso questa ipocrisia pelosa dove tutti volemo se bene. Noi dell'Italia dei Valori non siamo disponibili a questa sorta di palude che si vuole creare, e allora per questa ragione chiamiamo le cose con il vero nome. Allora, se ci sono dei parlamentari che la mattina sono a Montecitorio e la sera armeggiano con i camorristi, fanno affari con i camorristi, prendono tangenti dai camorristi, si dividono gli appalti dei rifiuti in Campania, si dividono i posti nei bacini, in Eco 4, insomma, se ci sta ormai acclarata questa connivenza, questo rapporto, io dico a prescindere dagli aspetti prima penali del processo e giudiziari, a me non interessano questi aspetti, a me interessa il profilo etico e morale che deve riavere la politica. Ho capito, ma perché dice acclarata? Voglio dire, ci sarà un processo per acclarare una cosa, no? Delle accuse gravissime che tutti abbiamo letto. Al di là del processo, io ribadisco, allora, se oggi da accertamenti della Guardia di Finanza, dei Carabinieri e della magistratura della DDA di Napoli è stato appurato che esistono dei rapporti, dei contatti, delle frequentazioni, delle cointeressenze, la gestione, diciamo, del denaro pubblico che è avvenuto tra i parlamentari, tra i politici, tra imprese e tra i clan di Casaletti, il clan Bidognetti, sì, insomma il clan Setola. Sì, lei dice allora, ancora acclarata, insomma, dei pentiti dicono così, ci saranno dei processi, ribadisco questa cosa, no Barbato? Allora, ad oggi noi sappiamo solo C'è il cellulare, lo ripristiniamo. Allora, prima di tornare un attimo da Faccia, al quale volevo sottoporre un SMS che ci è arrivato. Due ascoltatori, se sono brevi. Marco da Roma, buongiorno, che dice? Buongiorno, buongiorno. La metterebbe l'immunità? Sarò brevissimo, volevo dire, premesso che sono assolutamente contrario alla reintroduzione dell'immunità, sì, e premesso che l'unica forma potrebbe essere quella che i suoi ospiti hanno spiegato sui reati politici, mi chiedo, ma per scansare ogni dubbio nella popolazione che si facciano sempre le leggi ad persona, ma perché queste proposte non le si fanno dalla prossima legislatura? Così nessuno ha il dubbio. Ma come, ieri non ha sentito l'avvocato Pecorella qui diceva ma io non lo so se inciderà per il processo Mills, vedremo. Non lo so. Io non sono l'avvocato del Premier per quel processo. Allora, poi alla seconda volta ha detto forse inciderà. Esatto, e noi vogliamo essere sicuri, facciamolo dalla prossima legislatura, voglio vedere se la continuano a proporre o meno. Grazie Marco. Pericle da Ancona, buongiorno. Buongiorno. Che dice? Allora, secondo me attualmente la questione, c'è uno spostamento di garanzie maggiori per i magistrati e quasi nulla per i parlamentari. I magistrati sono un concorso, non vengono eletti dal popolo e sono, per quanto riguarda trasferimenti, procedimenti disciplinari, li decide un organo di autogoverno che è composto quasi essenzialmente da magistrati, totalmente da magistrati. I parlamentari perché non dovrebbero avere, che sono eletti dal popolo e che potrebbe ogni 5 anni anche non rieleggerli, perché non dovrebbero avere una garanzia? Quindi lei è per l'immunità, va bene. Io sono per l'immunità. Perfetto, grazie Pericle. Filippo Facci, sì grazie, devo andare un po' di corsa. Filippo Facci, un messaggio ci dice, ma perché all'estero in alcuni paesi c'è l'immunità? Perché non ci sono i disgraziati, la parola è un po' più forte, che ci stanno a Roma? Ascolti, io sono onorato di aver come interlocutore il senatore D'Ambrosio, mi sembrava anche una bella discussione. Se i termini sono quelli, io spero che sia ancora all'ascolto, allora io devo precisare, uno, che l'articolo in questione è il 68, non il 78 come l'ha detto lui, secondo, che si dice i reati perseguiti e non perseguitati, e terzo, che se reputa che tutto questo, rivolere l'immunità parlamentare o parte di essa, sia un problema di cosca, l'espressione che ha usato, si guardi in casa, perché nel febbraio scorso Antonio Di Pietro fruì su propria richiesta della immunità europarlamentare per via di una richiesta di autorizzazione a procedere che l'avrebbe visto sicuramente condannato in un processo civile per una querela del giudice Filippo Verde a margine di un articolo sbagliato, come riconosciuto lo stesso Di Pietro, che lui aveva scritto. Quindi due pesi e due misure, tanto per cambiare, si guardi in casa, perché allora la cassa ce l'ha nel capo partito. Questo lo dico con questo tono, visto il tono che lui ha adottato prima che dopo che mi era sembrato la discussione si avviasse più. Allora vediamo di concludere in maniera come l'abbiamo iniziata, senatore D'Ambrosio. Abbiamo 30 secondi. Lei si ricorda cosa pensò quando il Parlamento tolse l'immunità parlamentare, modificò l'articolo 68 della Costituzione? Fu soddisfatto? Certo che fu soddisfatto, da magistrato. Perché veniva tolto un privilegio che è quello che era diventato, era degenerato in un privilegio per i parlamentari. Lei pensi ai reati che può commettere un qualsiasi parlamentare e alla condizione di chi si trova danneggiato da questo reato, come per esempio aver subito una violenza carnale, essere stato investito per strada, cose eccetera, da un parlamentare, e invece poi si trova a dover aspettare l'autorizzazione a procedere, che magari non viene concessa perché non viene concessa. Quindi a questo punto qua io direi che, siccome c'è un principio che tutti i cittadini sono uguali di fronte alla legge, non riesco a capire per quale ragione il parlamentare non debba essere sottoposto a procedimento penale quando commette un reato. Questo non riesco a capirlo, anche perché nel nostro codice nella nostra Costituzione c'è una presunzione di innocenza fino alla sentenza passata in giudicato. Allora, se si parte da questo principio che il processo comunque deve essere celebrato, io non credo che ci sia tanto pericolo per i politici, perché dobbiamo sempre tenere presente che il processo stesso ha una serie di controlli interni sull'operato dei magistrati precedenti. Abbiamo l'appello, abbiamo il ricorso per Cassazione. Certo, quindi tutte le garanzie del caso. Tutte le garanzie possibili, immaginabili. Ora, io capisco che si possa lanciare l'accusa ai magistrati di fare politica, ma tutti i magistrati dal primo grado, dall'indagine preliminare, tutti politicizzati, sì. Alla primo grado, all'appello, alla Cassazione. Non è possibile tutto questo. Che si ecco lo scatto del magistrato è venuto fuori alla fine, non del senatore. Io vi devo fermare qui ringraziando tutti, Gerardo D'Ambrosio, Franco Barbato e Filippo Facci, di cui ricordo Di Pietro la storia vera, edito da Mondadori. Ci fermiamo, grazie a Laura Marchese e Peter Bescapè in regia. Votate e a lunedì.